X24, i gialli della storia. Si sono voluti mesi e mesi per trovarlo, papà. Ci hanno chiamato verso in autunno, verso ottobre. E lì ci sono stati 3-4 mesi, mi pare, prima che... Ma noi però già avevamo visto, perché avevano alle due parti, da una parte avevano con le mani, così avevano fatto come un buco, così. E allora ci arrampicavamo un pochetto su con una candela, accendevamo, e lì abbiamo visto tutti loro, uno sopra l'altro, erano diventati tutti grigi, sembrano tanti gatti grigi, lì, ma stavano ammucchiati uno sopra l'altro. È stato riconosciuto da un'agendina con dei indirizzi telefonici e da un orologio, guarda caso, che era tedesco, Rostov. Lui come ferroviere aveva l'orologio da tasca, e gli è rimasto solo quello in tasca. Quando è morto, da questo orologio, da questa agendina, abbiamo riconosciuto. Queste le testimonianze dei parenti di alcune delle 335 vittime tra civili e militari italiani fucilati nell'eccidio delle forze ardeatine. La strage compiuta nel marzo del 44 dalle truppe tedesche che occupano la città di Roma. Oggi qui a Radio 24 ripercorriamo insieme le ore precedenti a quei terribile giorno, il 24 marzo del 44, partendo appunto dall'attentato di Via Rasella. Nel pomeriggio del 23 marzo 1944 elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca di polizia in transito in Via Rasella. Il comando tedesco ha perciò ordinato che per ogni tedesco assassinato 10 comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di una città in guerra, Roma città aperta, occupata dai nazisti, è la storia di un'azione partigiana e di una rappresaglia feroce e terribile. Tutto ha inizio in Via Rasella. È giovedì 23 marzo 1944, così Giorgio Amendola, all'epoca comandante dei GAP partigiani a Roma, intervistato da Gianni Bisiak, ricorda com'è nata quell'azione. L'azione nacque qua, questa azione di guerra, quando io, passando parecchie ore in questa piazza, vidi che ogni giorno questo protone passava alla stessa ora, con precisione teutonica, passava alla stessa ora come a fermare questa occupazione. E quindi, come comandante delle Brigate Garibaldi, pensai che fosse l'oggetto di un'azione che aveva anche un carattere politico, e quindi diedi l'ordine militare al comando dei GAP di eseguire questa funzione, di questo attacco. Cioè, secondo me il punto migliore è quando loro salgono per via Rasella, lì li potete attaccare. Sono Carla Carponi, sono una delle partigiane che ha fatto parte dell'attacco di via Rasella. La mattina del 23 marzo 1944 ci siamo alzati da quei giacigli dove dormivamo, in una cantina a via Marco Aurelio, e avevamo dormito pochissimo perché tutta la notte avevamo lavorato intorno a questo carretto della Requesta Urbana, perché la bomba di via Rasella era stata procurata, il detonatore con tutto il materiale esplosivo dal centro militare, e invece la Romana Gas aveva preparato lo spezzone con il quale noi abbiamo preparato la bomba. Oggetto della nostra azione era l'undicesima compagnia del terzo battaglione dell'SS, Polizei Regiment Bozen. Per i partigiani dei GAP, quel battaglione tedesco che ogni giorno sfila in via Rasella è il bersaglio perfetto, quasi un simbolo dell'occupazione nazista della città, è Roma. Roma in quel marzo del 44 è una città allo stremo, piegata dalla fame, dalla violenza tedesca, dai bombardamenti alleati. A via Rasella, dunque, tutto è pronto. Ore 15:50. Il colonnello Herbert Kappler, comandante della Gestapo a Roma, sta andando nel suo ufficio di via Tasso. Sente l'esplosione, ma non le attribuisce importanza. 15:51. A Via Rasella sono morte oltre 20 persone. I militari sopravvissuti sparano all'impazzata. 15:55. Arriva sul posto il generale Kurt Meltzer, comandante della Wehrmacht a Roma. È visibilmente ubriaco. Di fronte allo scenario di morte e distruzione, perde la testa. In Via Rasella poi c'era, nel momento del nostro arrivo, è arrivato 5 minuti prima il comandante di Roma e il generale Meltzer, che faceva purtroppo una piuttosto brutta figura, gesticolando, piangendo, chiamando i suoi camerati morti e minacciando di voler far saltare tutta la Via Rasella. A Via Rasella sono presenti Guido Buffarini Guidi, ministro degli interni della Repubblica Sociale, Eugen Dollmann, colonnello delle SS e rappresentante di Himmler a Roma, e il console generale tedesco a Roma, Friedrich Eitel Mühlhausen. Il generale Meltzer incominciò a inveire contro mio padre, dicendogli che questo era il risultato della politica morbida dei diplomatici. Disse anche che voleva far saltare le case, e a quel punto mio padre naturalmente lo prese di petto e gli disse che se Meltzer avesse fatto saltare in aria le case circostanti, sarebbe entrato in una di queste case e Meltzer avrebbe praticamente fatto saltare in aria anche il console generale tedesco a Roma. Meltzer si infuria e intima a Mühlhausen di non intromettersi in affari militari. Mühlhausen si ritira all'ambasciata tedesca a Villa Volkonski. Da qui chiama il feldmaresciallo Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Sud Europa, il cui quartier generale si trova vicino a Roma. Kesselring, che in quel momento è al fronte di Anzio in ispezione, è l'unico che può fermare Meltzer. Insomma, si cercava di evitare il peggio, quindi mio papà tornò all'ambasciata e cercò di mettersi in contatto immediatamente con il quartier generale. Così Luca Mühlhausen, figlio di Friedrich, console generale tedesco a Roma, che cerca di evitare il peggio. Il console ha intuito benissimo che la reazione dei militari nazisti all'azione di Via Rasella sarà terribile, e infatti a Via Rasella e nelle strade circostanti i nazisti hanno già iniziato il rastrellamento indiscriminato dei civili. Il comandante della polizia e dei servizi di sicurezza tedeschi, Herbert Kappler, prepara la rappresaglia. Il rastrellamento è iniziato. Queste le drammatiche testimonianze di Ada Pignotti, Irma Prosperi, parenti delle vittime uccise nella strage delle Fosse Ardeatine. Sono venuti, hanno visto questi quattro uomini, non ci hanno visto più, quando hanno visto che erano quattro gli uomini. Poi sono stati presi tutti insieme perché erano ospiti di questa casa, non abitavano nella casa di via Quattro Fontane. Allora prima ha cominciato a portare via uno col calcio del fucile, una botta dietro le spalle. Kappler arriva a Via Rasella. I tedeschi hanno già iniziato i rastrellamenti dei civili della zona. Io ero in braccio a mio padre e i tedeschi hanno intimato a mio padre di mettermi giù, e dicendo giù bambina, caputta, caputta. Poiché mio padre mi stringeva a sé, i tedeschi mi hanno preso in mano e mi hanno gettato in terra. A Via Rasella sono state rastrellate 110 persone. Kappler ordina che siano consegnate alla polizia italiana. Nel frattempo, i partigiani che hanno compiuto l'azione si stanno disperdendo per Roma. 16:55. Il comando militare in Italia informa l'Oberkommando der Wehrmacht, il comando supremo tedesco in Prussia orientale. Al telefono risponde il generale Horst von Butler, dello Stato Maggiore di Hitler. Dopo pochi minuti viene informato anche il Führer. Hitler pareva impazzita, andava su tutte le furie e chiedeva ad alta voce che sarebbe stato distrutto un quartiere intero di Roma con tutti i suoi abitanti. Inoltre voleva che per ogni soldato morto, tedesco morto, si doveva essere fucilati 30, anche 50 ostaggi italiani. 17:10. Meltzer telefona al suo superiore diretto, il comandante della 14ª armata, Eberhard von Mackensen. Von Mackensen gli vieta di prendere qualunque iniziativa senza la sua autorizzazione. 17:15. Von Butler richiama in Italia. Hitler è furibondo. A Roma gli ufficiali tedeschi sono sconcertati. Decidono di prendere tempo in attesa del ritorno del feldmaresciallo Kesselring. Poco dopo, sebbene tutta l'operazione stia avvenendo in gran segreto, il console Mühlhausen viene a sapere che la rappresaglia di Hitler sarà terribile. Ore 18. Eugen Dollmann, anch'egli informato sulle intenzioni dei tedeschi, si reca da padre Pancrazio Pfeiffer, considerato il corriere di Papa Pacelli presso i nazisti. Certamente ha attivato i canali possibili per sapere se ci poteva essere una rappresaglia. Quindi tramite l'ambasciata tedesca presso la Santa Sede, l'ambasciatore von Weizsäcker, il Papa cercò di sapere di questa possibile rappresaglia. Il canale era chiuso perché le risposte dell'ambasciata furono evasive. Figuriamoci se un ordine di Hitler per un evento così grave, con quelle tragiche conseguenze per i militari tedeschi, poteva essere sospeso, perché i rapporti tra Hitler e Pio XII erano rapporti da parte di Hitler di odio della Chiesa Cattolica. In Germania Hitler non vuole sentire ragioni, non vuole sentire neanche le ragioni dei suoi più stretti collaboratori. 18 e 15. Von Mackensen, Meltzer e Kappler concordano che una rappresaglia troppo violenta potrebbe nuocere agli interessi del Reich. Decidono di scrivere al Comando Supremo tedesco. Il comandante della 14ª Armata, d'accordo con il comandante di Roma, generale Meltzer, reputa necessaria una rappresaglia nel rapporto massimo di 1 a 10. Il comandante della 14ª Armata ritiene un tale rapporto come il massimo possibile. A Roma non resta che attendere. Ma Kappler già inizia a pensare alla lista degli ostaggi da far fucilare. I morti tedeschi intanto salgono a 28. Ore 20. Dalla Germania von Butler telefona a Kesselring. Il Führer ordina che per ogni soldato tedesco ucciso siano fucilati 10 ostaggi italiani. Kesselring incarica von Mackensen. Esecuzione immediata. Ad organizzare la rappresaglia sarà Herbert Kappler. Kappler seleziona i detenuti già condannati a morte, quelli in attesa di condanna, ma non essendo sufficienti, si fa autorizzare a includere anche 57 ebrei, fin qui sfuggiti alle deportazioni e già destinati ad Auschwitz. Ma ancora non basta. Kappler chiede al questore di Roma, Pietro Caruso, di fornirgli altri 50 nomi. Ore 24. Il console Mühlhausen si reca da Kappler. Vuole tentare il tutto per evitare il massacro. Verso la mezzanotte mio padre si recò nell'ufficio di Kappler per tentare un ultimo intervento. Lo trovò chino sulla sua scrivania a redigere le liste di coloro che sarebbero stati da lì a poco uccisi. Gli rispose seccato che gli disse: Mühlhausen, ti prometto quello che posso, e cioè per ognuno di quei nomi penserò tre volte. Ma in realtà quella di Kappler è solo una frase di circostanza per liberarsi del console. Per Herbert Kappler, lo zelante poliziotto del Führer, le priorità essenzialmente sono due: raggiungere il numero di condannati a morte previsto da Hitler e eseguire nel più breve tempo possibile la sentenza. E l'ordine di Hitler è stato chiaro e preciso: esecuzione immediata. Dunque non ci sono spazio per dubbi, scrupoli, ripensamenti. Dall'azione di Via Rasella sono passate 16 ore e 40 minuti. È venerdì 24 marzo 1944. Nella notte i morti tedeschi diventano 32. Kappler, aiutato dal capitano Erich Priebke, continua a cercare le sue vittime. 24 marzo. Al mattino vengono vietate tutte le comunicazioni tra i detenuti nelle carceri romane e i loro familiari. Ore 10. Il questore Pietro Caruso riferisce a Kappler che non è stato possibile trovare alcun indizio per scovare gli attentatori. Kappler chiede a Caruso i 50 nomi da aggiungere alla lista di 270 che ha compilato nella notte. Ore 13. Kappler riceve da Caruso i 50 nomi. Arriva la notizia che è morto un altro tedesco. Le vittime ora sono 33. Alla lista di condannati a morte, detenuti comuni, ebrei, si aggiunge un'altra decina di ebrei appena arrestati. Kappler torna nel suo ufficio e prepara il lavoro dei suoi ufficiali. 13:45. La rappresaglia ha inizio. I detenuti del carcere di Regina Coeli, di Via Tasso e delle altre prigioni naziste iniziano ad essere prelevati. Detenuti comuni condannati a morte, ebrei, civili rastrellati a caso con l'aiuto della polizia fascista, i tedeschi hanno compilato l'elenco delle vittime. Alle 13:45 gli ostaggi vengono caricati sui camion e trasportati sulla via Ardeatina in una cava di tufo. Siamo al momento dell'eccidio. Dalla deposizione di Herbert Kapler. Calcolai quanti minuti erano necessari per ognuna delle vittime. Calcolai anche le armi e le munizioni necessarie. Cercai di rendermi conto di quanto tempo avessi a mia disposizione. Divisi i miei uomini in piccole squadre che dovevano alternarsi. Ordinai che ogni uomo sparasse solamente un colpo e che la morte fosse istantanea. I soldati tedeschi obbligavano le loro vittime ancora in vita a salire in cima ai compagni già morti. Poi si dovevano inginocchiare, presentando la nuca ai colpi dei carnefici. Una volta morti, cadevano uno strato sull'altro, formando un cumulo. Alla fine, gli assassini dovettero salire sulla catasta dei cadaveri per trovarsi nella giusta posizione di fuoco. In preda all'alcol, i tedeschi non si controllavano più. Nella tragedia che si consuma sulla via Ardeatina, il generale Herbert Kapler e il suo aiutante, il capitano Priebke, hanno pensato a tutto. I tedeschi infatti fanno saltare con delle cariche esplosive l'ingresso della cava, quasi a sigillare per sempre quell'orrore. Nessuno a Roma deve sapere dove sono quei morti e quanti sono. E le vittime delle fosse Ardeatine sono 335, cioè 5 in più rispetto al rapporto di 1 a 10 stabilito da Hitler nel suo ordine. Per il massacro delle fosse Ardeatine i tribunali hanno condannato all'ergastolo Herbert Kapler e poi, 50 anni dopo, Erich Priebke, scovato in Argentina e estradato in Italia. Ma quella delle fosse Ardeatine è soprattutto il dramma delle vittime e delle loro famiglie. Solo dopo la liberazione di Roma nel giugno del 1944 le dimensioni di quell'eccidio verranno alla luce insieme ai cadaveri di quegli innocenti. Ci sono voluti mesi e mesi per trovarlo, papà. Ci hanno chiamato verso in autunno, verso ottobre. E lì ci sono stati 3-4 mesi, mi pare, primavera. Ma noi però già avevamo visto, perché avevano alle due parti, da una parte avevano con le mani, così avevano fatto come un buco così. E allora ci arrampicavamo un pochetto su con una candela, accendevamo, e lì abbiamo visto tutti loro, uno sopra l'altro, erano diventati tutti grigi. Sotto quei corridoi era brutto, orrendo. Vedevo nelle casse da morto teschi, mi ricordo una puzza orrenda proprio sotto a quei corridoi dell'Ardeatina. Erano passati pochi mesi, una cosa a vederla tremenda, ricordo come fosse successo ieri, rimango proprio negli occhi. Un giorno hanno tirato fuori mio cognato, il padre e il coso, e il cognato del mio cognato. E il giorno appresso io stavo lì che aspettavo, allora hanno detto, abbiamo trovato l'altro Pignotti. Quando l'ho visto, perché ci sono voluto andare a vederlo, perché non potevo fare, stavo là, mi hanno detto che l'avevano ritrovato, dico, voglio vedere com'è. E che volevo dire? Non si può descrivere che cos'erano quei morti. Una cosa impressionante da che non te lo scorderai mai più. E sono rimasto io e mia sorella proprio malamente, ma d'altra parte dovevamo farlo. Ci hanno chiamato a noi proprio per riconoscere i resti, il cadavere di papà, come facciamo? Poi ci hanno detto che c'era pure la mamma, la sua, e gli hanno detto che il marito purtroppo era morto, non era morto subito, era morto non si sa quanto, fra 3, 4, 5 giorni, insomma è morto lì, isolato, perché si vede che si era alzato, che è appoggiato sulla cava lì, diciamo, è appoggiato lì e era rimasto mummificato. E tanto è vero, quando sono andati per prenderlo, per tirarlo fuori, l'hanno trovato a occhi sbarrati e gli si vedeva ancora il celeste degli occhi, che c'erano gli occhi celesti lui. È stato riconosciuto da un'agendina con dei indirizzi telefonici e da un orologio, guarda caso, che era tedesco, Rostov. Lui come ferroviere aveva l'orologio da tasca. Gli è rimasto solo quello in tasca, quando è morto. Da questo orologio, da questa agendina abbiamo riconosciuto. Il nonno non era mai ricercato, soltanto che si vede che era destino che doveva morire. C'era tanto paura dei tedeschi quando facevano i rastrellamenti e lui spariva. Non so dove si nascondeva perché c'aveva paura, c'era il terrore dei tedeschi. C'erano da finire proprio in mezzo. Secondo me è stato preso su segnalazione di quelli che avevano assistito. Papà spiombava di notte i vagoni dove erano dentro gli ebrei tedeschi che erano inviati in Germania, partivano tutti dalla stazione Tiburtina, nella notte buio, erano tolti tutti i riflettori, lui spiombava i vagoni, prendeva dei messaggi, dei bigliettini, secondo me, non avendo altri, hanno preso i primi che hanno segnalati, fermi così, nessuna colpa, solo segnalati in attesa del giudizio. Herbert Kappler, nel 1948 è stato condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine. Evaso dall'ospedale militare del Celio il 15 agosto 1977, è morto in Germania sei mesi dopo. Albert Kesselring è stato processato nel 1947 e condannato a morte per crimini di guerra. La pena è stata commutata in ergastolo. Rimesso in libertà nel 1952 per gravissimi motivi di salute, è tornato in Germania, dove è stato accolto da eroe dai circoli neonazisti bavaresi, con cui ha collaborato attivamente fino alla sua morte nel 1960. Pietro Caruso è stato processato il 20 settembre del 1944 da un tribunale civile che lo ha condannato a morte. Prima di essere giustiziato, il giorno stesso al plotone di esecuzione ha detto: «Mirate bene». Erich Priebke è stato scovato nel 1994 a Bariloche, in Argentina, dove viveva indisturbato. Estradato in Italia e processato a Roma, è stato riconosciuto colpevole della morte delle cinque persone in più portate per errore alle Fosse Ardeatine. Secondo Priebke, si trattava di pericolosi testimoni oculari da eliminare. Nel 1997 è stato condannato all'ergastolo. Erich Priebke muore l'11 ottobre del 2013 nella sua casa romana all'età di 100 anni. Priebke non ha mai rinnegato il suo passato né accennato ad alcun pentimento. Ma l'attacco di Via Rasella negli anni ha suscitato molte polemiche e molti interrogativi. Qual era il vero obiettivo di Via Rasella? Se avessero saputo della rappresaglia, i partigiani lo avrebbero fatto lo stesso? E soprattutto, se si fossero consegnati ai tedeschi, avrebbero potuto evitare il massacro delle Fosse Ardeatine? Ascoltiamo Carla Capponi, che partecipò all'attentato, e Giorgio Amendola, comandante dei GAP partigiani, intervistato da Gianni Bisiak nel 74. Molti ci hanno chiesto se avessimo saputo prima che ci sarebbe stata questa grossa rappresaglia, se noi l'avremmo fatto l'attacco o se ci saremmo offerti subito dopo per consegnati ai tedeschi. Questi sono due argomenti. Sul primo argomento dico che noi l'avremmo fatto lo stesso, perché non possiamo, la resistenza non può prescindere dall'esistere senza pensare che poi il nemico si avvarrà di tutti gli strumenti che ha per le ritorsioni, questo non c'è dubbio. Ma il nemico va combattuto comunque. In realtà non ci fu nessun invito a presentarsi. Caprio lo ha anche dichiarato, volevano fare presto. Noi fummo avvisati dopo. Del resto, ho sempre dichiarato, non ci saremmo presentati. Perché noi eravamo come un reparto in guerra e non potevamo consegnarci al nemico in quel momento. L'unico nostro impegno è di continuare a lottare. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.